Però insomma, quantomeno sicuramente si schiaffano a Fassino e vedremo nei rapporti con Marchionne come sarà la linea del Fassino. Ricordiamo uno che diceva: guardate sì all'accordo, perché è un buon accordo. Marchionne è l'innovazione, la modernità, l'ottocentesca modernità. Vai Gustavo con la tua grinta. Samuele, sei proprio un borboncello, Samuele, di' la verità. Ecco, questa è una nuova experimental puntata di Banda Armata. Infatti questa è la Banda Armata Live, la stiamo facendo non più serale, ma questa è la trasmissione che stiamo facendo alle ore 18. C'è l'aula che pullula di gente, ci stanno ascoltando in maniera... E ricordiamo anche gli appuntamenti in differita sulle frequenze di Radio Ciroma, 105.7 ogni giovedì alle... alle 16.30 su Radio Ciroma e invece alle 21.30 su transizionedifase.org, altra web radio. E infatti salutiamo tutti gli ascoltatori live, salutiamo tutti gli ascoltatori che ci stanno ascoltando dal vivo nell'aula P2 e iniziamo subito, diciamo, a prendere il toro per le corna. Infatti si trattava di non badare più alle ciance elettorali, ma iniziare a parlare, insomma, di quello che è stato da sempre il nostro leitmotiv. Delle elezioni ce n'è importato comunque poco. E noi abbiamo sempre continuato a battere sul tasto del referendum, delle campagne sull'acqua, sul nucleare, quindi riprendiamo da là. Quello che stiamo facendo in questo momento è appunto un punto sull'acqua, cioè come abbiamo detto l'altro giorno, anche nella scorsa puntata, Sorical, Veolia e compagnia politica, diciamo, hanno una storia che può essere definita un sogno senza fine, no? Come abbiamo ben detto, il concetto è quello. Il concetto è che comunque non basta agitare lo spauracchio del privato, ma quelli coloro che ci hanno distrutto, comunque le condutture d'acqua che ci davano l'acqua un giorno sì, un altro no, nei paesini più limitrofi, eccetera, eccetera, sono comunque le amministrazioni, sono comunque anche province, regioni che fanno parte della Sorica a pieno titolo, avendo 50, qualcosa per cento, addirittura la maggioranza delle azioni. Quindi questo qua è significativo, come è fatta la Sorical e come gestisce la nostra acqua lo abbiamo spiegato l'altra volta, cioè sì, è vero che la Veolia, la multinazionale francese, non ha la maggioranza delle azioni, perché assolutamente ci teniamo a precisare che quella è una azienda di partecipazione privata, ma comunque a maggioranza pubblica. Però c'è da dire una cosa, che nello statuto della Sorical dice che la Sorical può prendere decisioni solo con una maggioranza del 55%. Ma perché il 55%? La domanda è presto risolta da un altro piccolo fatto, ovvero sia che la Sorical ha una partecipazione privata che va al 47%, e senza appunto quel 2% che appartiene alla Veolia, e quindi in sostanza senza avere l'appoggio della Veolia non si fa nulla. Quindi tutte le decisioni che sono state prese, è vero, sono state prese in connivenza tra i due apparati. Ma questo è significativo di questo fatto e anche le due fantastiche notizie di cui siamo venuti a conoscenza in questi giorni, ovvero sia la prima è quella là, che tratta di una piccola delibera che sta facendo il nostro consiglio regionale, che scavalca il referendum, va oltre, perché ovviamente il referendum toglie l'obbligatorietà della partecipazione privata, perché la legge che è attualmente in vigore dice che entro il 31 dicembre del 2011 le partecipazioni e la gestione delle risorse idriche nazionali dovrà passare a società di tipo misto, ovvero sia società di tipo misto a maggioranza privata. Quello che ha fatto il... quindi dall'obbligatorietà. Il referendum dice no, non è obbligatorio, però mantiene la possibilità di farlo. Quindi la nostra carissima regione è andata avanti e ha detto vabbè, anche se fosse che il nostro progetto, diciamo con il decreto Ronchi, se non mi sbaglio si chiama legge Ronchi, il nostro progetto non vada in porto, perché questo 1.400.000 questo manipolo di 1.400.000 cittadini facinorosi ci mette il bastone fra le ruote, comunque noi andiamo avanti e fanno una delibera che dicono che comunque tutta la gestione tutta la rete idrica regionale dovrà andare nelle mani appunto dovranno dare le nostre società a partecipazione privata e a maggioranza privata. Questa è una cosa che sottolinea quella che è la connivenza che c'è tra i poteri. No, la cosa interessante che, partendo da quello che diceva Gustavo, che è un'impressione molto interessante, è bello notare come la chiave di lettura di tutte queste cose che sono state le privatizzazioni che hanno colpito gli apparati quelli che erano una volta tipo le Ferrovie dello Stato, l'Enel, Telecom Italia, eccetera eccetera, hanno avuto come forse metafora quello che viene fuori con la frase di socializzare i debiti e privatizzare i profitti. Un po' il caso estremo è appunto quello del, Gustavo già mi ha capito, è quello del di Alitalia, in cui si è creata una compagnia in cui si sono accumulati tutti quanti i debiti, non a caso è una compagnia controllata dallo Stato, è un'altra compagnia che poi era quella formata da questi nostri valorosi, eroici imprenditori, che a un certo punto poi si è accollata anche tutti quelli che sono stati gli utili e i profitti. E a questo riguardo è importante anche vedere come non è importante, cioè molto spesso si agita contro il referendum l'argomentazione faziosa del fatto che noi vogliamo conservare le cose per come sono, che abbiamo questa spinta ideologica, Ronchi lo scrisse anche una famosa lettera, ma il fatto qual è? Che noi non tanto difendiamo le cose perché sono adesso, per come sono adesso, noi cerchiamo di resistere a quello che è già un palesato peggioramento delle condizioni idriche e soprattutto regionali, che ci vedono in molti casi con debiti astronomici, con tariffe triplicate, con servizi peggiorati e in alcuni casi, come il caso della sera, con acqua anche potabile. Infatti mi stai dando un assist, perché il fatto dei debiti è il secondo punto che la nostra cara regione ha utilizzato per mettere in ginocchio completamente la gestione comunale, diciamo così. Infatti ha invitato in maniera abbastanza coercitiva tutti i comuni che hanno contratto in passato debiti e che ne contrarranno in futuro a rivolgersi a banche, contro banche, eccetera eccetera, con dei patti abbastanza stringenti, ovvero sia si parla di canoni dati ad hoc mese per mese, e che non si sa quando quando si chiuderà questo pagamento. Prego. Ma infatti la cosa interessante anche qui, c'è una parentesi interessante e poi ci dedichiamo una bella canzone, ma il fatto qual è che per questa cosa dei debiti, la cosa bella è che è recente il fatto che la banca Carime, la banca Intesa, non ricordo bene il nome della banca, ha creato un fondo apposta per le piccole e medie imprese calabresi, dedicante appunto a tutti quei settori del mondo produttivo che in questo momento sono vittime della crisi, che in sostanza gli voglio dire: se siete in crisi non vi preoccupate, venite da noi e indebitate. Vi hanno fatto questo contratto tra il Consiglio regionale e questo gruppo bancario e hanno detto: entro, quindi anche noi vogliamo sottoscrivere questo appello. Se siete in crisi e volete indebitarvi, vi consigliamo di aderire entro il 31 luglio a questa convenzione regionale, di conseguenza che avrete anche voi un futuro di precarietà come lo possono avere tanti altri giovani. Adesso Peppe, sganciaci una canzonace. Don't sai Gio, ma che mi sono chissi? Che Dio stiva calciaverà. Greggia che tu mai sì. Io dopo voglio sentire Turbo America, te lo dico così te la prepari, però ci vuole Turbo. Pezzaccio di Rage Against the Machine, pezzaccio. Sì, già ce l'ha menata una, io ti tolgo il microfono perché sei troppo un cane sciolto. Allora, continuiamo con la questione acqua, no? Continuiamo con quella questione che volevo dare, comunque una cosa volevo leggere a tutti quanti, lo so che tutti quanti adesso mi malediranno perché io leggo qualcosa. Ebbene sì, leggerò qualcosa. Sì, sì, ti sto maledirendo già da prima, malediranno. Partenariato direi addirittura. Ci vuoi dire, partenariato lo vai a dire a tua sorella questa, Smettala. Allora, volevo dire, è una notizia comunque che ha una settimana, però è bene che tutti quanti gli abitanti della città di Crotone sappiano che i loro futuri sindaci, sia che sia da una parte sia che sia dall'altra, perché avranno più sindaci contemporaneamente, no, i loro futuri sindaci nel senso che adesso sono futuribili sindaci, no? Sì, i loro futuribili sindaci hanno sottoscritto l'8 maggio un appello che è partito appunto dal comitato Acqua Bene Comune e quindi io vado a spiegare più o meno cosa hanno sottoscritto, quindi in maniera tale che tutti i cittadini di Crotone sappiano quali diritti debbano andare ad esigere, perché l'hanno firmato loro, tutti quanti, tutti e 9 candidati, prima di essere prima delle prime amministrative, prima del ballottaggio, quindi adesso siamo al 17 maggio, quindi ancora il ballottaggio non è stato fatto. Allora, hanno firmato questo documento che dice: sono consapevole che l'acqua rappresenta fonte di vita insostituibile per gli ecosistemi, eccetera, eccetera. Sono consapevole che l'acqua costituisce un bene comune dell'umanità, un bene comune e universale, un bene comune pubblico che appartiene a tutti. Sono sempre consapevoli, lor signori, e l'hanno firmato questo documento, che il diritto all'acqua è un diritto inalienabile. L'acqua non può essere proprietà di nessuno. Sono sempre consapevoli che oggi in Italia se ne sta privatizzando la gestione, quindi sanno, loro sono coscienti di quello che sta succedendo, e questo già io avrei qualche dubbio, comunque, no, sono coscienti, scherzo. E l'acqua dunque adesso è sottratta alla proprietà collettiva e trasformata in una merce al pari di altre per trarne profitto, ne sono consapevoli e questo non può che riempirci di gioia. Sono consapevoli che per impedire questa deriva 1.400.000 cittadine e cittadini, i facinorosi di qui prima, hanno chiesto un referendum per ribadire che l'acqua deve essere un bene comune garantito dalla proprietà e dalla gestione interamente pubblica, dalla partecipazione dei cittadini e cittadini e il controllo diretto da parte delle comunità locali. Quindi loro sono consapevoli di questo. Quindi e qua viene il bello, qua sono le cose che noi potremo domani, quando sicuramente loro non manterranno questa sottoscrizione, andare a schiaffare in faccia questo documento, perché adesso ci sono gli impegni. Perciò mi impegno a Perciò mi impegno a sostenere le ragioni del sì sui referendum dell'acqua del 12 e 13 giugno, promuovendo la più ampia partecipazione ed informazione sul tema. Attenzione, quindi immagino che in questo momento a Crotone le liste che si stanno concorrendo per il ballottaggio stiano facendo pullula di banchetti, Crotone, sull'acqua, sul nucleare, sulla eccetera eccetera. Se eletta, quindi si impegna ancora, se eletta o eletto, di promuovere e sostenere con i mezzi istituzionali a mia disposizione una politica di gestione dell'acqua finalizzata a, ecco, vediamo come dovrà essere la politica di gestione dell'acqua della città di Crotone, sostanzialmente, chiunque sia il candidato. Allora, la politica di gestione dell'acqua sarà finalizzata a di Crotone del prossimo quinquennio, quindi sarà finalizzata a la ripubblicizzazione del servizio idrico nella nostra città o provincia, preservare e salvaguardare le risorse idriche e favorire l'accesso all'acqua per tutti, come diritto a partire dal proprio territorio. Ridurre il consumo e gli sprechi di acqua potabile a livello di comportamenti ed usi quotidiani, privilegiando per bere il consumo di acqua di rubinetto, in casa ed a sollecitarne l'uso nei luoghi pubblici di acqua di rubinetto. Quindi si impegnano anche a renderla potabile quella, a renderla cristallina come deve essere. Quindi si impegnano ad assicurare la più ampia partecipazione della cittadinanza udite nel controllo e nella gestione. Ma voi, secondo voi, l'hanno letta questa cosa? Io non lo so se l'hanno letta, spero che poi abbiano la possibilità. Soprattutto io faccio un appello a Dorina Bianchi. Ma però Dorina Bianchi, dico, se nel caso non hai capito qualche cosa di questa cosa che hai firmato, io, se vuoi, posso darti lezioni private, picchitori, non lo so, tu. Ti tolgo il microfono, cioè, che se proprio ci denunciano per stalking, smettila. Questo è Samuele, ci tengo. No, il rapporto era politico, chiaramente, perché Dorina Bianchi, riguardo la questione, la tua campagna elettorale era stata appoggiata da Berlusconi, appoggiata, ripeto. E io vorrei sapere, sul piano nazionale, io capisco, posso forse immaginare in un fantamondo le ragioni che possono portare alla privatizzazione dell'acqua, anzi il mondo reale, perché il profitto è reale. Ma sul piano locale, uno che mi sottoscrive di lottare per la pubblicizzazione dell'acqua, io non lo so, c'è qualcosa sotto il vestito c'è. Sì, c'è qualcosa sotto il vestito, direi. Quindi si assicura la prima. Poi l'ultimo punto. Scusami, Gustavo, questo qui non è l'orario notturno, quindi certe allusioni non possiamo farle. Ci sono ancora i bambini che ci seguono. Giusto, siamo in fascia protetta, Samuele, smetti. Quindi loro si impegnano a ribadire l'acqua come un bene non commerciale, garantito come diritto, come un bene non commerciale. Dorina ha affermato che un bene non commerciale, garantito come diritto, e per questo non disponibile a speculazioni di natura commerciale o finanziaria. Detto questo, io non dico altro, ma dico, vabbè, le contraddizioni sono le loro, alla fine. Cioè, noi problemi non ne abbiamo, noi abbiamo sempre sostenuto la nazionalizzazione di quello il più possibile. Comunque Gustavo è della provincia di Crotone, si sente, è molto affermato, però tutti quanti saremo, se voi Crotone siate responsabili, che i vostri candidati, i vostri sindaci, quello che stanno, il vostro sindaco, hanno detto queste cose. Vai Beppe con canzona, già! Maribor 1980 para pico. Bingo e bago e bulco. Ed eccoci nuovamente in onda. Dopo aver parlato di Crotone per non suscitare l'ira della popolazione cosentina, da quasi cosentino parlo di Cosenza, per ricordare che proprio nell'ottica del referendum sull'acqua ci sarà un'importante iniziativa promossa al Comitato Acqua e Bene Comune di Cosenza il 20 maggio in via Marconi, praticamente davanti alla RAI. Questo perché? Questo perché, come tutti ben sanno, in questi giorni nessuna rete pubblica, cioè Rai 1, 2 e 3, ma né tantomeno chiaramente le reti private, si sono preoccupate di pubblicizzare il referendum del prossimo 12 e 13 di giugno. Quindi purtroppo dobbiamo essere noi a fare quello che è il servizio pubblico dovrebbe normalmente in un paese simil normale dovrebbe fare, quindi non lo fanno loro, lo facciamo noi. Quindi detto questo, passiamo ad un altro argomento che già abbiamo trattato in passato, purtroppo, il nucleare. Il referendum tratterà l'acqua, ci saranno due testi referendari sull'acqua e ci sarà anche un testo referendario sul nucleare, a meno che la Cassazione non decida in senso contrario, ma siamo sicuri che non sarà. Su Sonnano, dice Gustavo, in crotonese, ricordiamolo. Allora, cerchiamo di capire un pochettino, ricordiamo cosa è successo a Fukushima. Il terremoto, il terribile terremoto di un paio di mesi fa aveva prodotto di enormi danni alla centrale nucleare di Fukushima. Il governo ha cercato di nascondere finché ha potuto quello che stava accadendo e ancora oggi non si riescono a limitare praticamente i danni. La TEPCO, la società che gestisce praticamente l'impianto, ha rinunciato all'idea di raffreddare i reattori allagando di acqua perché ci sono delle enormi falle che non lo consentono, e allora stanno cercando adesso di cambiare strategie mandando invece dell'acqua già contaminata, acqua contaminata che poi dovrà essere decontaminata, sono dei contenitivi enormi, costruendo poi dei bacini di stoccaggio, insomma un casino della Madonna, ci verrebbe da dire, perdonate l'espressione blasfema, poco ortodossa mi suggerisce Gustavo. Qui mi viene in mente una prima riflessione. Ci dicono tanto il nucleare è la panacea di tutti i mali, risolve i problemi, è sicuro, questa è la balla numero uno, costa poco, balla numero due. A me verrebbe che costa poco un cazzo, perché? Perché costruire le centrali costa, perché... Diciamo che siamo in vena di eufemismi. Sì, siamo sicuri che sia l'ultima puntata sulle frequenze di Radio Cirome di transizione di fase, va bene, sfruttiamola bene. Allora, dicevo, costa poco, no, perché le centrali costano, perché l'uranio che deve essere alimentato alle centrali costa, perché lo smaltimento dei rifiuti radioattivi costa, e già in Italia abbiamo numerosi problemi con lo smaltimento dei rifiuti radioattivi provenienti dagli ospedali. Perché poi quei tecnici come questo qui costano, alla fine dei conti, anche se si dovesse risolvere il problema, non lo faranno in Giappone purtroppo, costa veramente tanto tanto tanto riuscire a risolvere questi problemi. Samuele vuole aggiungere assolutamente qualcosa, quindi prima che mi linci gli concedo il microfono. No, non volevo fare mobbing su Pierpaolo, no? Volevo aggiungere che non solo noi l'uranio arriverà a costare tantissimo, perché poi essendo una merce che andrà a esaurirsi, il mercato inizierà a impallarsi, no? Non solo noi sapremo esattamente quanto costa un kilowatt di energia nucleare solamente quando inizieremo a smaltire, perché lo smaltimento, tutte le previsioni che fanno, non ce lo mettono mai dentro, ma guarda un po', ma noi smaltiamo adesso anche i rifiuti nucleari di tante altre zone, non vorrei dire, ma le navi dei veleni non le smaltisci mica ci sono bambini, ma le smaltiamo noi. Come al solito sei fazioso e sei anche ipocrita, sei un bugiardo, perché non c'è nessuna nave dei veleni sulle nostre coste, Samuele. Non so come te lo abbiamo di ripetere, anche il procuratore nazionale antimafia Grasso ha detto che non c'è nessuna nave dei veleni, non c'è nessuna nave Kursk, che è il Catania, va bene? Quindi finiamo con queste menzogne, cazzo. Continuiamo a capire un pochettino quello che sta succedendo ancora in Giappone. La TEPCO, che la ribadiamo, è una società che si occupa della gestione, nonostante ci siano delle notizie rassicuranti, sta annunciando la creazione di un sistema di monitoraggio della radioattività nel tratto di costa vicino a Fukushima, quello che è stato più devastato dalla disgrazia. Chiaramente perché? Perché l'acqua che si è sversata in mare lungo le coste che stanno nell'intorno di Fukushima contiene un tasso di radioattività enorme che sta procurando tantissimi danni, tant'è che il governo, se da una parte rassicura i cittadini giapponesi dicendo tutto va bene, il raffreddamento lo stiamo gestendo al meglio, dall'altra parte, e qui c'è un'ipocrisia enorme in mezzo, ha riconosciuto alla popolazione colpita lo status di vittima di una politica nazionale. Questa è una notizia importante che non è passata nei nostri media, cioè mettendo in pratica l'errore del sostegno pubblico, del sostegno dello Stato giapponese alla politica che ha avallato la diffusione dell'energia atomica praticamente. E questa qui è una cosa molto importante, e qui ci possiamo ricollegare alla questione del referendum. Cioè, se da una parte c'è un governo giapponese che sta praticamente si sta smentendo, sta facendo mia colpa, scusateci, abbiamo sbagliato, vi rimborsiamo perché lo Stato giapponese ha avallato questa politica e adesso ne state pagando le conseguenze, dall'altra parte c'è invece in Italia il governo che, nonostante abbia decretato la moratoria di un anno e via dicendo, è ancora convinto, e noi ne siamo sicuri, di portare avanti questa strada del nucleare, benché stia facendo... Ah, ecco, sì, infatti, Gustavo voleva aggiungere qualcos'altro di importante. Lo dico, c'è anche Samuele che, voglio dire, secondo me è un sardignolo, anche se mi hanno spiegato che non è proprio sardignolo il termine, perché i sardignoli sono gli asini, mentre dice sardo, cioè l'abitante della Sardegna è un sardo, sia ben chiaro. Beh, grazie della precisazione, Gustavo, perché avevo dei dubbi. Comunque, prolungando il ragionamento di Pierpaolo, nostro grande, grandissimo Pierpaolo, è interessante notare come la cosa più eclatante da noi è che si va al nucleare con delle ragioni che possono essere discutibili, ma ampiamente discutibili in questo caso, ma senza che in Italia ci sia un piano energetico coerente. Si obietterebbe, anzi, senza che ci sia proprio un piano energetico. Tant'è vero che il caso eclatante è quello della regione in cui siamo, che produce energia con centrali di diverso tipo, e ne vogliono fare altre, e questa energia semplicemente serve ad essere esportata da altre parti. Noi siamo al bacino d'utenza. Mi viene da pensare alla cosa del rigassificatore di Gioia Tauro, che è oscena. Cioè, c'è una centrale a biogas, che una centrale comunque a turbogas, che fa dell'energia. Questa energia, dice, vabbè, è a gas, eccetera, c'è tutto quello che sappiamo. Dopodiché si stanno andando per costruire un rigassificatore, sempre nella piana di Gioia Tauro. Allora, il passaggio logico è, ok, il rigassificatore servirà a rigassificare il gas che arriva con i container a Gioia Tauro, per poi essere pronto per la centrale a turbogas di Gioia Tauro. No, è troppo facile. E invece noi mettiamo la centrale a turbogas, che funziona con il gas che viene dall'Iran. Infatti stanno costruendo un gasdotto dall'Iran perché deve alimentare la centrale a turbogas. Mentre poi il rigassificatore rigassificherà del gas che poi con un altro gasdotto arriverà fino in Francia. Questa è una cosa molto interessante delle dinamiche globali. Non lo so, facciamo uno stacco. Direi che, vista l'atmosfera gassosa degli ultimi istanti, sarebbe forse il momento di mettere su una canzone. Scorreggiato? No, era Gustavo veramente che ne parlava, quindi... Vai Pepe, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Sbagliare mira, probabilmente il bersaglio che vede solo l'abbaglio di chi da dietro spera e tu ci provi ancora, perché poi gira e rigira, gli serve solo una scusa. La fregatura è che è sempre una

E da noi è nocivo, questa cosa lo sappiamo perché in Francia, dove ci sono le centrali, si rileva una cosa che nessuno che si preoccupano di non farci sapere, si rileva una radioattività diffusa che comunque, come ben sapete, la radioattività si accumula e noi diventiamo, inizieremo ad avere tre occhi e cose del genere, per buttarla sul ridere. Ma anche da noi la nostra regione è ampiamente interessata da movimenti sismici e da altri smottamenti geologici, e quindi immaginatevi se costruiamo una centrale nucleare, che cosa ne succede? Magari se ne cade, oppure se la facciamo in Calabria e una piccola pioggia fa avvenire quello che è avvenuto per tanti comuni, una bella alluvione, una bella discesa di fango e terra, e magari si tira giù pure la centrale e abbiamo fatto con le cazze, insomma è venuta fuori proprio perfetto. Oltre a questo ci fa capire che le scelte energetiche si fanno sui desideri, sugli interessi delle lobby energetiche, e non su quelli che sono i bisogni reali della popolazione. Questa è una cosa che questo governo, come altri governi, continua a fare, e noi dobbiamo impegnarci non solo per il referendum, ma per andare per creare una opposizione reale a dinamiche di questo tipo, perché sono sulla nostra pelle questo. Anche perché è importante ribadire questo concetto, è importante che si lega anche con la questione dell'acqua, ed è importante che si lega anche con le ultime decisioni della nostra regione, no? Cioè sì, il referendum è un momento importante, è un momento in cui il popolo deve dimostrare la sua sovranità, e quindi è importante la partecipazione, ed è importante far vedere, insomma, far sentire anche la propria voce. Però non basta solo il referendum, e non basta diciamo demandare il proprio ruolo di cittadini ad un'attività che si attesta contando provinciali, regionali, comunali, politiche e referendum vari ed europee, si attesta sulla ora ogni 5-6 anni, se mettiamo tutti i minuti, diciamo, che servono per mettere una croce. E bon peace sempre. Quindi ovvero? Bon peace vuol dire, insomma, una cosa, dice, l'esempio classico, allora, a Crotone, l'esempio classico del bon peace. Allora, il bon peace crotonese è il detto classico del fruttivendolo. Quando pesa qualcosa, tipo tu chiedi 3 kg di roba e lui ne mette 2 kg e 9, no? E quant'è? E gli segno su 3 kg bon peace, nel senso che all'incirca sono all'incirca e approssimando per eccesso, dal latino bonum pisus. Grazie per queste fenomenali lezioni. Comunque, arrivata a questo punto, prego. Per chiudere la questione sul nucleare, è importante notare una cosa che ci ha fatto perdere belli soldi a noi italiani, che è quello che ha a che fare con lo sdoppiamento tra la giornata della votazione e la giornata del referendum, cioè l'amministrativa e il referendum. Questa cosa che ci ha fatto pagare un sacco di soldi in più per questa cosa, ebbene, far notare come l'esempio della Sardegna è un esempio molto eclatante. Che nelle votazioni dell'amministrativa c'è stato accorpato un referendum per decidere se le scorie e se nella regione si possono ospitare scorie e impianti nucleari, e questa cosa che è stata accorpata alle elezioni amministrative, il referendum regionale, ha aumentato di molto non solo il quorum del referendum, che è stato superato ampiamente, ma anche l'affluenza alle votazioni stesse, che sono comunque un problema istituzionale, tra virgolette, che molti si pongono, soprattutto quelli che fanno lo sdoppiamento delle elezioni, no? E quindi si è avuto il 60% di influenza al referendum, con il 98% dei sì, una maggioranza schiacciante. Quindi la Sardegna, come molte altre regioni, si esprime contraria a ospitare rifiuti o gli stabilimenti, e l'affluenza amministrativa che tocca il 75%, quindi un risultato che serve a dire molte cose. Una cosa interessante è che il Comitato Nazionale per l'Antonio Nucleare il 21 maggio si preoccuperà di fare catene umane attorno ai luoghi simboli di diverse città, e speriamo che anche in Calabria qualcosa del genere avvenga. Io credo che possiamo lanciare un altro pezzo leggero leggero e dopo continuiamo su questa linea. Vai Peppe. C'è l'alternativa. Non parli mai, non ridi mai, imparerai quanto poco rende la tua azienda. La tua azienda, la tua azienda, la tua azienda, la tua azienda. Puntuale mai, non senti mai, ci costringerai a ritenere chiusa la faccenda. Con l'azienda, con l'azienda, con l'azienda, con l'azienda. Convieni oppure te ne vai, decidi. E qui come si fa? Come si fa? Siamo soggetti alle dilatività. C'è un equivoco. Io scompare. E non mi applico. Equivoco. Mi pepino. Salve, c'è una canzone buona, molto buona. E adesso, a proposito di progressione verso campagne, diciamo, che non siano proiettate solo verso il referendum, l'importante è, appunto, come dicevamo prima, andare oltre quello che è la semplice data del referendum, ma capire che comunque tutti quanti, come cittadini attivi, dobbiamo esercitare la nostra sovranità popolare giorno per giorno. Una campagna che si è fatta, secondo noi, del collettivo portatrice anche di queste istanze, è la campagna Mobasta, della difesa del territorio che noi, di cui noi facciamo parte. La campagna Mobasta, appunto, è una campagna che ci teniamo a sottolineare, una campagna di mobilitazione. È una campagna che vuole puntare ad un'idea diversa, di gestione, appunto, delle cose del popolo, diciamo così. È importante, appunto, dal documento, appunto, che è a testa della campagna Mobasta. Ho estratto 4-5 punti che penso siano importanti per capire qual è la chiave, secondo noi, giusta in cui bisogna leggere la partecipazione al referendum e l'attività politica di singoli cittadini, di persone che comunque hanno intenzione di lavorare in questa direzione. Uno è la prima è appunto quella che, come dicevamo, si basa sul concetto di democrazia. Dice, nelle prime righe c'è spiegato che il concetto di democrazia presuppone il governo del popolo, mentre in Italia e soprattutto in Calabria è stato dimostrato a più riprese che ormai a governare non è né il popolo, e questo penso non sia mai successo, non sono né i piccoli salotti, diciamo, politici, di consigli di province, consigli di regione, eccetera eccetera, ma bensì sono le multinazionali, sostanzialmente, perché le leggi che vengono fatte sono leggi che sono fatte per lo più sotto lo schiaffo della fuga dei capitali, sotto lo schiaffo dell'appetibilità per l'investimento di questo, oppure sotto l'intimidazione politico-mafiosa di svariati gruppi, come dire, di gruppi di pressione economica locale. E la questione in questo caso diventa interessante nella parola chiave della democrazia, perché soprattutto da noi la gestione si è esternalizzata. Anche qui l'altra volta facevamo una metafora interessante citando una frase di Adam Smith che diceva la mano invisibile del mercato, che per noi che la viviamo forse più direttamente diventa il pene invisibile del mercato, e questo il pene e quindi questa cosa per noi è evidente nell'esternalizzazione che ha portato e che è stato il modo per far perdere per voce ai consigli comunali su quelle che sono la gestione di rifiuti, di tutto quello che è il comparto ambientale. Tanto è vero che adesso questa decisione è affidata a queste società miste in cui il comune ha il compito semplicemente di far quadrare il bilancio, non quindi un compito decisionale sostanzialmente, ma il compito di far quadrare il bilancio. Questo significa che noi anche una volta ci mettiamo le nostre energie per averne in contrario, per averne in cambio delle decisioni, delle direttive che sono espressione di multinazionali, espressioni di gruppi di potere che ancora una volta esprimono, come dire, sono uno dei cancri di quello che sono il nostro paese. Perché, appunto, un altro punto che sottolinea il fatto che questa campagna vada oltre il referendum è, appunto, che non si limita, appunto, come fa il referendum, a lasciare all'arbitrio delle singole comunità sedarsi al privato o meno, ma appunto per questa ragione, per una ragione di carattere politica e democratica, si specifica in maniera forte è precisa che bisogna tornare a gestioni interamente pubbliche. sì, che bisogna levare le SPA e le esigenze del bilancio dalla gestione della cosa pubblica. Questo è importante perché appunto per il ragionamento che faceva in maniera giusta Samuele, ovvero sia il ragionamento delle esternalizzazioni, che sono esternalizzazione dopo esternalizzazione, sempre un passo in avanti verso il baratro della dittatura del mercato, che sappiamo benissimo essere anche con gli apparati classici dell'amministrazione, però comunque garantiscono, sono quei luoghi che comunque hanno carattere assembleare, che garantiscono un certo dialogo e una certa partecipazione alla vita e alla gestione pubblica. Quindi è importante che siano quei luoghi a decidere della cosa e dei beni di tutti quanti. Vuoi dire una cosa? Sì, è importante quindi che questi che sono comunque nel bene e nel male possono diventare strumenti, le istituzioni possono diventare strumenti nostri di riappropriazione di quelli che sono i nostri diritti, e lì questi sono i luoghi in cui noi dobbiamo tornare a decidere, ad amministrare quello che sono il nostro territorio, affinché possiamo riuscire finalmente a strapparlo dalle mani della speculazione, di quelle che sono appunto gli interessi del profitto. Un'altra di queste parole chiave della democrazia, che in questo modo noi decliniamo l'ambiente attraverso la rete di difesa del territorio con la chiave della democrazia, che è lungi dall'essere una cosa che abbiamo, è una cosa che dobbiamo costruire. E allora noi diciamo un'altra cosa molto importante, insieme al nucleare, insieme all'acqua, che sono cose importanti e fondamentali per cui noi dobbiamo batterci, che si declinano col referendum, noi dobbiamo portare avanti un'altra cosa come calabresi. Come calabresi dobbiamo dire al commissario, dire che questo commissariamento di 14 anni, che in barba alle leggi ordinarie ha permesso tutto e tutti, agli amici, ai potenti, a multinazionali e parrini di questa terra, noi dobbiamo dire che questo schifo deve finire adesso. Quindi questo deve essere una forma per cui noi riprendiamo il discorso politico nelle nostre mani, riprendiamo a decidere noi di quello che avviene nella nostra terra. Per questo uno degli elementi importanti è torniamo a decidere noi delle nostre vite. Anche perché appunto la politica emergenziale del commissario evita quello che anzi non permette proprio quello che dovrebbe essere l'osmosi tra la base e gli amministratori, che è necessaria per avere un piano e una gestione organica di quello che è il ciclo dei rifiuti. È molto importante. Quindi io, visto che sto vedendo Peppe Lange proprio distrutto da questo discorso, che insomma lui è per i fatti, poche parole, vai Peppe, facci sognare con un tuo fatto. Una canzone conflittuale, Peppe. We'll be right back. c'è Peppe che dorme. Beh, dai, o dormire per il Pierson. Beh, faccio la traduzione: c'è Peppe che dorme, Peppe non dormire. La traduzione è per i falconaroti, per i falconaresi. Questa è una discriminazione razziale, etnica. E perciò ti denuncerò davanti al Tribunale Internazionale. Sì, vabbè. E allora dicevamo che la campagna Mobasta è una campagna di mobilitazione, e soprattutto è che per natura la rete di difesa del territorio è una rete di coordinamento tra varie realtà. E infatti la declinazione della campagna Mobasta, mobilitiamoci tutti, è una declinazione territoriale che fa proprio, si veste della poliedricità politica della nostra terra. Infatti ogni comitato appartenente si sta mobilitando e si sta impegnando affinché siamo tanti sempre di più, si sta mobilitando affinché queste ragioni della campagna Mobasta, della rete di difesa del territorio, si facciano sentire, anche perché sono appunto delle ragioni che sono radicate in tutta la regione. A dimostrazione di questo, le iniziative fatte sono state già fatte ad Amantea, a Serra San Bruno, a Cosenza, a Fagnano Castella, a San Giovanni in Fiore, se ne faranno ad Acri, a Vibo Valentia, all'Università della Calabria, molto probabilmente una verso la fine di maggio e le altre agli inizi di giugno, almeno tre iniziative. E quello che appunto si vuole fare è riprendere la partecipazione appunto del territorio sulle grandi questioni, una partecipazione che anche e quindi diciamo un sì al referendum per l'acqua pubblica, un sì contro il nucleare, e soprattutto impegniamoci per finirla con la politica emergenziale e quindi per la fine del commissariamento all'emergenza rifiuti. Quello che dicevamo è appunto l'impegno attivo delle popolazioni e dei cittadini che vivono nel proprio territorio, cosa molto importante. Un esempio lo abbiamo anche a Cosenza, quello del comitato Prendo Casa, che infatti e domani ci scrivono appunto proprio in diretta dal web. Diciamolo che abbiamo i nostri più affezionati ascoltatori che ci scrivono in diretta e ci danno consigli, quindi il nostro grandissimo gruppo di ascoltatori fatto da una decina di migliaia di unità ci aiuta. Una decina di migliaia di unità cellulari, penso, di nemmeno un braccio, no. E quindi a Corigliano, ci dicevano dal web, a Corigliano ci sarà un'iniziativa domani sempre della campagna Mobasta. Ecco, dicevamo a Cosenza c'è il comitato Prendo Casa che sta lavorando in una direzione che va assolutamente in una direzione di contrasto rispetto a quella che è la politica abitativa che tutte le amministrazioni a Cosenza hanno mantenuto negli ultimi 10 anni. Infatti Cosenza conta almeno 20.000 stanze vuote all'attivo e ben 1.780 famiglie, questi sono dati del 2005, però hanno presentato richiesta di una casa popolare. Ma il lavoro che negli ultimi 15 anni è stato fatto è stato sfruttare questo bacino appunto di gente che sta ai margini della nostra società, di gente precaria, di gente che non ha un lavoro, di gente che è sempre sotto lo schiaffo del padrone di turno, e utilizzarlo come a proprio piacimento, come bacino elettorale di riferimento. Questo è un lavoro che è stato fatto e è declinato in ogni salsa da ogni amministrazione, e il nodo di queste occupazioni di maggio sostanzialmente, che ricordano un po' un altro maggio, no? Maggio, quando si fa qualcosa a maggio è sempre, ma mi viene sempre una melanconia artistica, direi saturnina quasi. Comunque dicevo che bisogna attivarsi, e quello che stanno facendo, che sta facendo il comitato Prendo Casa in questa direzione, deve avere perlomeno il nostro applauso, se non la nostra partecipazione attiva. E vorrei farvi rendere anche voi partecipi dell'ultimo comunicato che si inserisce appunto nella questione elettorale, è uscito stamattina, appunto dice che il comitato Prendo Casa si inserisce nel silenzio elettorale per sottoporre alcuni punti inerenti alle questioni che sono affrontate non ai candidati, ed è questo importante, perché non vogliamo fare il gioco di nessuno, ma al sindaco e all'amministrazione di domani, affinché affrontino il problema casa fuori dai proclami elettorali, delle logiche clientelari che finora l'ha contraddistinto. Ecco, loro vogliono avere un dialogo che, conoscendoli, sarà molto acceso. Però vogliono mettere l'amministrazione cosentina di fronte alla grande questione, ovvero sia di fronte alla questione di queste migliaia di famiglie che allo stato attuale non possono avere una vita dignitosa perché continuamente sotto sfratto, continuamente sotto il ricatto di non avere un tetto sopra la casa. E loro hanno identificato anche dei punti su cui discutere, ovvero sì, il riordino delle decadenze degli alloggi assegnati ai non aventi diritto al rispetto del turnover, revoca o ridimensionamento dell'accordo comune regione unica che attualmente assegna a quest'ultima, all'università, 6-7 palazzi del centro storico senza che questi siano effettivamente vissuti e o richiesti dagli studenti. Requisizione e recupero degli immobili fatiscenti del centro storico, questo è un altro grande punto. Cioè, non si vive, non si fa vivere una città e un centro storico con i locali o con facendola diventare sostanzialmente l'ennesimo centro commerciale all'aperto come tanti ne conosciamo e che costellano la nostra penisola. Ma il centro storico si fa vivere se diventa un luogo di vita vera, ovvero sia un luogo dove ci stanno famiglie, un luogo dove ci stanno persone che vivono la città ad ogni ora e ad ogni momento. E non si capisce il motivo per cui ancora non si riesce a far sì che questo, il centro storico di Cosenza, che tra l'altro è uno dei centri storici più belli d'Italia, detto da Sgarbi, quindi voglio dire un autorevole punto di riferimento da questo punto di vista, scherzo, ancora non si riesca a fare un lavoro del genere. Poi appunto questo va anche in contrasto, il recupero degli edifici del centro storico a scopo abitativo va anche a contrastare quella che è la logica della cementificazione dissennata, che fa da volano alle energie e al recupero di crediti mafioso che sappiamo essere abbastanza vivo in questo territorio. E inoltre appunto questo qua dovrà essere più o meno il canovaccio di discussione tra il comitato Prendo Casa e il futuro sindaco di Cosenza. Sam, speriamo che i sindaci si facciano vedere non soltanto per chiedere il voto ma anche per discutere i programmi, ma sarebbe una cosa paradossale, tanto è vero che probabilmente i sindaci verranno a farsi vedere, farsi intervistare magari di fronte alle occupazioni, verranno a dare solitare l'appoggio in speranza di qualche manciata di voti, ma probabilmente succederà poco altro. Il fatto interessante è quello che esiste un problema reale, il problema della casa, che a cosa si sente molto, ed è legato soprattutto a una gestione dissennata di questo problema casa, che dalle istituzioni è stata gestita da prima, se non altro con una sollecitazione alla speculazione. Prima ci hanno fatto un sacco di soldi costruendo case che molto spesso sono anche vuote, e le teorie e le analisi urbanistiche non solo di Cosenza ma anche italiane ci dicono che abbiamo a disposizione tanto spazio, ma anche adesso nella gestione dell'assegnazione degli alloggi avviene questa opera magica che sono ferme il grosso del tempo, scattano a volte quando c'è un'elezione, quando c'è un momento di scambio che può permettere un sacco di una mangiata dei voti o un avanzamento personale. So Peppe ci lancia, quale canzone ci lancia Peppe? La canzone del Colle del Fomento, di Canzonaccia, ecco per voi. Posso darti amore come odio, posso darti un problema come invece posso dartene il rimedio. pure solamente quel poco che mi hai dato. Posso regalarti la luce del sole che brilla, accendere il fuoco che in te mi basta solo una scintilla. Per fare più bella questa sera posso anche amarti, ma amarti alla mia maniera. Quello che ti do è quello che ciò che so, non chiedermi di più non ho. Quello che ti do è quello che so che ciò è quello che mi serve mo. Quello che ti do è quello che ciò che so, non chiedermi di più non ho. Quello che ti do è quello che ciò è quello che mi serve. Quello che ti do, solo quello che ciò, sempre vero sì. Come vivo mi capisci sì, credimi. Un massiccio sa distinguere dell'importante. Leggilo sul muro e non mi chiedere più niente. I giorni passano, sempre meno sole, sempre più sole. In piedi per poterle raccontare. Vivo mo, perché qualche cosa nella testa c'ho. Questo do, se m'avanzi qualche cosa io te lo darò. Odio pieno se qualcuno perde, qualcun altro trova. Super beffa se la canta e se biena sona. Sta in campana, se un massiccio emana vibrazioni. Vivo nell'asfalto e cerco soluzioni. Tocca che serve meglio. Un massiccio sa distinguere dell'importante. Se te l'ambastisci poi se sente. Vedi te sta buono. Qualcuno stringe cose che non ha nella sua mano. Quello che ti do, mo vero manco romano. Ti do quello che ciò che so, non chiedermi di più non ho. Quello che ti do è quello che so che ciò è quello che mi serve mo. Quello che ti do è quello che ciò che so, non chiedermi di più non ho. Quello che ti do è quello che so che ciò è quello che mi serve. Ti do sensazioni che non hai mai provato prima. Ti faccio volare come quando porto la mia guenda sulla luna. E vola sempre più in alto. Sfida il buio con me, ci si riesce con un salto. Posso trascinarti dentro la mia oscurità, darti tutta la disperazione della mia città. Posso darti tutto il freddo che c'è in testa, se poi la calma l'avrai, se no sarà tempesta. Un messaggio sa distinguere quello che do. Nessuno che mi segue mo come gli sto. Vivo con la gente mia perché se la cantano, troppi se la cantano, troppi non sanno ma ci credono. Vivo mo, Massimo non crede più e non è facile, cercheranno qualcun altro un po' più tutti. Prendo solo quello che ne vale, puoi non ascoltare ma non puoi cancellare. Quello che ti do, quello che ciò che so, non chiedermi di più non ho. Quello che ti do, quello che so che ciò è quello che mi serve mo. Quello che ti do, quello che ciò che so. Ed eccoci ancora in onda sulle frequenze di Fuori Onda Radio, poi in differita su Radio Ciroma e su transizionedifase.org. Apriamo la pagina internazionale, per così definirla, e iniziamo in particolar modo a parlare della Libia, momento anche questo che abbiamo trattato più volte nelle precedenti puntate. Purtroppo è in atto una guerra, l'ennesima guerra di aggressione imperialista occidentale nei confronti di una Libia già martoriata da una vera e propria guerra civile, che oppone i cosiddetti ribelli, per lo più forti nelle zone della Libia orientale, al regime di Gheddafi. Di ieri la notizia del mandato di arresto per Gheddafi, per il figlio Saif al-Islam e per il capo dei servizi segreti libici, perché colpevoli di crimini contro l'umanità. Questo è quello che dice il procuratore capo della Corte Penale Internazionale dell'AIA. Ah, si è curato se sono comunisti o meno questi. Toghe rosse, ovviamente, solo e soltanto toghe rosse, su questo non c'è dubbio. Originali, con il marco, con il tatuaggio sulla spalla, una bella falce martello. Toghe rosse internazionaliste, allora. Sempre. E quindi il compagno Luis Moreno Ocampo, il procuratore capo della Corte Penale Internazionale dell'AIA, ha infatti chiesto agli altri giudici rossi del tribunale, chiaramente, di emettere un mandato d'arresto per il padre, per il figlio e per lo Spirito Santo, dove per lo Spirito Santo si intende il capo dei servizi segreti libici. Quindi ora i giudici della CP dovranno decidere se accogliere la richiesta, quindi se spiccare questo mandato d'arresto oppure no. Secondo quanto dice il procuratore capo, ci sono delle prove enormi, addirittura sono già pronti ad andare al processo, perché le prove sono così forti, così schiaccianti, che non ci sarebbe proprio speranza per sfuggire alla condanna da parte di Gheddafi. Ricordiamo che l'inchiesta è stata aperta su richiesta del Consiglio di Sicurezza dell'ONU l'indomani della risoluzione che ha dato vita poi all'attacco da parte della coalizione dei volenterosi, di cui anche l'Italia, e ne siamo felicissimi, fa parte. Italia, Stati Uniti e soprattutto Francia, Gran Bretagna, che hanno spinto per l'ennesima missione di pace. Attenzione, non chiamiamola guerra perché è una missione di pace, e quindi bisogna stare attenti come si dicono le cose. Loro stanno bombardando soltanto per colpire l'aviazione, e infatti oggi dice la Francia che è stata annientata l'aviazione libica, quindi loro stanno soltanto cercando di proteggere i civili. Infatti tanti civili in questi giorni stanno andando all'obitorio perché colpiti dalle bombe intelligenti occidentali. Quindi secondo il procuratore, Gheddafi ha personalmente ordinato degli attacchi contro civili di libici disarmati usando anche l'artiglieria pesante. E qui viene da fare una prima riflessione semiseria su questo aspetto. Quindi Gheddafi praticamente è colpevole perché sta uccidendo i civili con le bombe, e la coalizione occidentale, che ne sta facendo tante di vittime con le bombe intelligenti che sbagliano mira, non dovrebbe essere allo stesso tempo incriminata per crimini contro l'umanità dal CP, no? O me la sto inventando questa cosa? È una questione di intenzione, scusa. Cioè, Gheddafi getta la bomba per ammazzare i civili. Invece, la coalizione dei volontari getta la bomba per ammazzare Gheddafi. Mo, se a bombe la coalizione, magari si frequentano con i bombe Gheddafi, i bombe dei nostri si frequentano con i bombe Gheddafi. E le bombe di Gheddafi portano sulla mala strada le nostre bombe, capito? È la mala compagnia che viene la bomba. La bomba di Gheddafi è fatta e buona nostra. Lazzaroni. Ho capito, come nel calcio, ci sono i falli intenzionali e quelli non intenzionali che l'arbitro magari non punisce. Ho capito, questi sono falli non intenzionali, quelli dell'occidentale, va bene. E quindi, si dice che Gheddafi starebbe compiendo dei crimini per preservare il suo potere assoluto, ricorrendo anche, diciamo, al terrore e alla paura. E che ci sarebbero molti testimoni. Qui mi viene da fare una seconda riflessione, anche questa banale, perché so fare soltanto riflessioni molto banali. Ma Gheddafi è al potere dal 1 settembre del 1969, ovvero dalla bellezza di quasi 42 anni. Ci hanno messo 42 anni per rendersi conto che Gheddafi commette crimini indicibili sulla popolazione libica, che utilizza il terrore, utilizza forme di tortura di vario genere. Il tribunale dell'AIA esiste già da tanti anni. Possibile che si siano resi conto soltanto ora, soltanto dopo l'attacco delle truppe occidentali alla Libia, che Gheddafi sia un tiranno, sia un dittatore? Ma questo qui non è lo stesso Gheddafi che 2 anni fa veniva accolto in pompa magna a Roma con 400 ossa, se non mi ricordo il numero esatto, ma erano tante, in minigonna, molto carine tra l'altro. Era lo stesso Gheddafi, se non mi sbaglio, o sto dicendo fesserie, Gustavo? Guarda il bicchiere mezzo pieno e non sempre mezzo vuoto. Fra 30 anni si accorgeranno di Berlusconi. Questo è un segno positivo. Allora speriamo che non se ne accorgano, perché se si accorgeranno fra 30 anni di Berlusconi, rischiamo di essere bombardati fra 30 anni. Speriamo che non se ne accorgeranno mai a sto punto, perché la questione è complicata. Visto il ritardo con cui il segnale arriva agli occidentali, agli americani, ai francesi, agli inglesi. No, ma guarda, da questo punto di vista io penso che il problema non si pone. Sai perché? Perché l'Italia, da questo punto di vista, ha la fortuna di non avere né gas naturale, né petrolio, né diamanti, né uranio, né altre materie prime. Quindi sei sicuro, le bombe in Italia non arriveranno. Almeno quelle intelligenti. Eh sì, questa riflessione per le bombe è proprio interessante. È tanto è vero che adesso sono tutti quanti grandi, come dire, sostenitori dell'attacco verso Gheddafi, mentre fino a poco tempo fa fioccavano gli affari e i traffici che lo vedevano, come dire, parte in gioco. Tant'è vero che penso che ce l'hanno messo lì apposta Gheddafi, per essere venuto fuori lì apposta Gheddafi, si è trovato giù bene per essere il fantoccio utile al, agli interessi delle varie Eni, Ansaldo, Fiat, per quanto riguarda le multinazionali italiane. E un paragone che mi veniva spontaneo sentendo queste cose che diceva giustamente per Paolo è quello che mi viene con le altre nazioni, con le altre nazioni che, per dire, hanno un regime e ci stiamo chiedendo da quanto tempo ci vorrà appunto per arrivare a far sì che i nostri eccelsi e importantissimi tribunali internazionali si accorgano di queste cose. È il caso, per dire, della Cina, in cui recentemente è praticamente scomparso uno degli architetti che, visto che noi studiamo, veniamo dalla facoltà di ingegneria, ci interessiamo anche di queste cose. Uno degli architetti ha costruito lo stadio delle Olimpiadi, e famoso oppositore ha dichiarato qualche tempo fa di tenere una lista di tutti i dissidenti che magicamente scompaiono e nessuno ne sa più niente. Dopo un po' è scomparso anche lui, vede un po' il caso come è geniale, diciamo che è stato arrestato, hanno detto, e quindi dopo aver resistito in passato a un tentato sgombero e rimozione del suo atelier, perché ci facevano delle riunioni sovversive, chiamate anche delle feste degli incontri, no? Per evitare che si incontrino gli oppositori, allora lo volevano fare fuori. È il caso, per dire, anche dell'India, in cui Yunus, famosissimo creatore della finanza, penso ideatore della finanza per i poveri, dell'economia, del microcredito, che ha creato appunto una banca per il microcredito che fa prestiti che nasce per fare dei prestiti alla popolazione indigente, pochi prestiti con poche finanze per poterla finanziare, per rilanciare l'economia in via di sviluppo, è stato arrestato qualche tempo fa e ha perso un ricorso contro gli organi competenti perché, pensate, faceva chissà quale problema internazionale, dirigeva la sua banca essendo in pensione. Questo è tutto quanto. E quindi di conseguenza vi faccio notare come la questione della legalità internazionale è una questione che dipende da punto a punto, è una cosa che è un po' o no, questa cosa ne pensi? Secondo me la legalità internazionale è bisogno di un lascio lungo, perché per legare tutto internazionalmente le cose con un lascio corto ci fa. Quindi bisogna legare internazionalmente, quindi legalità internazionale è difficile, poi so quanto pesa una corte che a rapportare, è un casino. Io direi, per distrarci a questa grande argomentazione, un pezzo dei... Okay, ma scusa Peppe, tu intanto che noi parliamo si sta ascoltando i Dire Straits, Peppe, ma dove ti sparare? Vabbè, vai, metti un pezzo. Ho fatto un sogno, giravo nel mondo, liberamente senza più documento, né Parlamento, mamme e bambini, e generali comandare i trenini. Ho visto pure gli americani volare in alto con i loro aeroplani, ma non scanciavano bombe, no, no, bombardavano con il rock and roll. Yeah, yeah, yeah, yeah. Siamo sicuri fosse un sogno, yeah, yeah. Mi piacerebbe che fosse così per ogni giorno, yeah, yeah, yeah. Siamo sicuri fosse un sogno, yeah, yeah, yeah. Mi piacerebbe che fosse così per ogni giorno, yeah. C'era un ragazzo che come me muoveva la sua testa a tempo sopra Biggie e Tupac. Nel suo track spingeva suoni per fuggire da una qualunque suburbia, provincia d'America. E già portava dentro la sua verità, cercava chance per cambiare una banale realtà. E al di là delle sue possibilità decise di mollare tutto per andare in città. E si sa, non era di sicuro abbastanza per cambiare per sempre il cielo della sua stanza. In sostanza decise di dare una svolta e tolta la rivolta dal suo cuore. Nel nome del Signore partì per una terra straniera, per una causa sincera. In realtà era una guerra vera. E ora che la sua anima è nera, il suo sogno torna a casa con lui avvolto in una bandiera. Ho fatto un sogno, giravo nel mondo liberamente senza più documento. Nel Parlamento mamme e bambini e i generali comandare i trenini. Ho visto pure gli americani volare in alto con i loro aeroplani, ma non scanciavano bombe, no, no, bombardavano con il rock and roll. Forse un sogno così non ritornerà più, non ci sono perché. Forse un giorno così non lo vivremo più, ma ci sono perché. E c'era un altro ragazzo che come me muoveva la sua vita a tempo sopra Biggie e Tupac. Senza track spingeva suoni per fuggire da una qualsiasi enclave nella terra di Allah. E già portava dentro la sua libertà, ma qualcuno gliela tolse per la sua verità. E al di là delle sue possibilità decise di mollare tutto per andare in città. E si sa, non bastava per ridargli certo serenità e dignità vissuta allo scoperto e nel deserto. Decise di dare una svolta e colta la rivolta nel suo cuore. Nel nome del Signore partì per la sua terra santa, per una guerra santa, per ritrovare una pace infranta. E ora canta nel suo harem celeste e il suo sogno torna a casa avvolto per sempre in una veste. Forse un giorno così non lo vivremo più, ma ci sono perle. Ho fatto un sogno, giravo nel mondo liberamente senza più documento. Nel Parlamento mamme e bambini e i generali comandare i treni. Ho visto pure gli americani volare in alto con i loro aeroplani, ma non scanciavano bombe, no, no, bombardavano con il rock and roll. Yeah, yeah, yeah, yeah. Siamo sicuri fosse un sogno. Yeah, yeah, yeah. Mi piacerebbe che fosse così per ogni giorno. Yeah, yeah, yeah, yeah. Siamo sicuri fosse un sogno. Yeah, yeah. Mi piacerebbe che fosse così per ogni giorno. E quindi, per concludere la questione sull'argomento internazionale, comunque è un argomento che toccando tante popolazioni, essendo quello che sta cambiando veramente all'interno del nostro squadro internazionale, io almeno volevo fare una riflessione per quanto quello che riguarda i diversi governi di transizione che molti si auspicano, che gli americani stessi auspicano per quanto riguarda gli sviluppi democratici dei paesi. Certo, quei paesi nascono e vivono all'interno di situazioni di tipo quasi autoritario, se non autoritario nel senso stretto, perché i governi fantoccio, grosso modo, che sono stati lì eletti in base alla loro funzione rispetto, come dicevamo prima, alle multinazionali che hanno interesse a sfruttare, a interessarsi di quel territorio in senso speculativo. Certamente, quindi, sviluppandosi in quei percorsi, quello che loro iniziano a chiedere è la democrazia in senso stretto, quindi un governo. Sicuramente poi si scontrano con un quadro materiale molto difficoltoso, è il caso della Tunisia, che è una situazione che a me sta personalmente abbastanza a cuore e che, di cui possiamo avere anche molte informazioni anche grazie ai compagni di InfoOut, che spesso monitorano la situazione in maniera costante. E lì la situazione è particolare perché, appunto, non particolare, era interessante, appunto, perché c'era un governo che aveva ramificazioni praticamente dappertutto. Il partito della coalizione di governo era il aveva sezioni proprio nelle fabbriche, per dire, aveva delle ramificazioni praticamente dappertutto, aveva una sezione di partito per ogni fabbrica, di modo che praticamente quella sezione fungesse quasi da punto di spionaggio, da punto di controllo. Gli impieghi pubblici erano gestiti di modo che ci fossero ci fosse una sorta di controllo sociale, di mantenere il bene sociale, appunto perché tu, se facevi una delazione su il tuo amico, il tuo parente, il tuo paesano, che sapevi che era uno che esprimeva il suo dissenso, tu avevi questo piccolo incarico pubblico, questo piccolo gettone di presenza. E l'amico tuo, oggi molte di queste persone entravano negli uffici della polizia per poi non uscirne. Questa è la grande questione, per poi non uscirne. Qui io vedo lineare il passaggio, il rapporto tra la Tunisia e la Cina, ed è importante questa cosa perché ci fa capire come con la Cina, grande potenza economica, ci comportiamo in un modo, con la Tunisia ci permettiamo altri tipi di interventi. E quindi è normale che in una situazione come questa il popolo si sia sollevato in questo modo. Cos'è che è importante dire, e che dicono anche le popolazioni tunisine stesse, è che nel cambio di governo, nel quello che viene chiamato come governo di transizione, che è stato appoggiato da diverse anche organizzazioni, da partiti, grosso modo la grande parte del... dopo la cacciata di Ben Ali, la grande cacciata di Ben Ali, che in una settimana è stato mandato via, la coalizione di governo è rimasta grosso modo quella, cioè che tolto Ben Ali e qualche altro suo suddito, la coalizione di governo è rimasta grosso modo quella. E la realtà nella sostanza dei fatti fa sì che gli stessi apparati, il partito stesso, che come dicevamo prima, pervade tutta la società tunisina, se rimane lì al governo e rimane così costrutturato, è una minaccia colossale per la democrazia stessa del paese, quindi anche per rivendicazioni di tipo democratico, che non siano rivendicazioni rivoluzionarie di questi comunisti cattivi, no? Ma siano democrazie elementari, si scontrano contro questi problemi fondamentali. Quindi un governo di transizione sarebbe in qualche modo legato per forza a questi interessi, di conseguenza si ricostituirebbe la situazione che noi possiamo, che i tunisini volevano abbattere. L'ultimo passaggio interessante che io vedo collegato, appunto anche come memoria storica di questi processi rivoluzionari, questi processi di sollevazione, è il passaggio con l'Afghanistan, in cui si è fatta una situazione del genere, che non riguarda molto la primavera, che non riguarda direttamente la primavera araba, come mi piace chiamare questa stagione di lotte, di speranze internazionali, ma è una cosa che ha a che fare con il passato. Lì ci sono diversi movimenti che chiedono di non candidare, di non avere al governo non tanto i malavitosi alla Di Pietro, ma i signori della guerra, che li controllano e decidono le sorti di un intero paese. Questo insieme di associazioni e movimenti, che hanno in sé un arcobaleno, una miriade di soggettività, quello che si trovano di fronte una situazione in cui il governo di transizione, quello che era l'organizzazione, che adesso è il governo di quel paese, creato ad hoc dagli americani, che guarda caso hanno sempre un ruolo in queste faccende, come è vero che attaccano la Libia facendo in continuità con la risoluzione ONU, che prevede solamente attacchi aerei, e poi sganciano la CIA, i servizi segreti, all'interno sulla terra della Libia. E quindi l'Afghanistan, ci cito per chiusura semplicemente le parole di questo attivista afghano, che dice: non possiamo ancora parlare liberamente di coloro che si sono macchiati di crimini terribili rispetto alla realtà afghana. Abbiamo visto ben poco in questa direzione, anzi,

scolarità dei professori. Era pochi in classe quella mattina, perché nell'assemblea del giorno prima si era già deciso di fare sciopero e corteo. Era le 8 del mattino, le mani in tasca per il freddo, tu camminavi per la strada con le compagne che già parlando tra loro dicevano chissà cosa dirò a casa. C'era della gente vicino a te che diceva oggi non ci sarà una sola scuola che faccia un'ora di lezione. Chi con la bandiera in una mano gli distribuiva un volantino con il viso stanco di chi non ha dormito. Parlavano di cose che non capivi, dicevano cose che non sapevi, gridavano cose che non pensavi, urlavi con gli amici, la scuola di studenti, sentivi più lontano la scuola di operai. Una mattina, leggendo sul giornale di capire che tutto quello che fino al giorno prima sembrava la più pura verità è solo un castello di bugie per tenere gli occhi chiusi e non vedere. Di automobili e di ecologia, pensando agli amici che ormai non vedi più, ricordi le serate a ballare tutti in compagnia, ridendo della gente vestita meno bene di te, è solo la vergogna e non la nostalgia di tanti giorni stupidi. Di proprio via, ti senti forse sola ma non hai rimpianti. I tuoi compagni vicino a me stanno già gridando insieme a te e dicendo basta allo sfruttamento e alla repressione. Chi con la bandiera in una mano, chi distribuisce un volantino con il viso stanco di chi non ha dormito. E alle 8 del mattino le mani in tasca per il petto a partire fuori dai cancelli con i compagni che già parlando tra loro preparano con te la prossima riunione.